Cinema Massimo. La storia del cinema con Massimo Pica. Oh, benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori del web, i nostri navigatori di internet. Sono Massimo Pica, siete in linea, in diretta in questo momento con Radio Abawal, la radio web di Ivrea, per una spuntata speciale, una novità del nostro palinsesto. Cinema Massimo parla dei film in sala in questo momento. Ho dedicato una prima serie di appuntamenti alla storia del cinema, raccontando il primo regista che è stato Woody Allen, che potete trovare i podcast sul nostro sito. Le puntate sono arrivate alla sesta, mi pare, e arriveremo fino alla decima raccontando la filmografia di Woody. Oggi abbiamo deciso di parlare di un argomento attuale, moderno, del momento, un film che sta facendo parlare nel bene e nel male un po' tutti quanti. Il film di Paolo Sorrentino, La grande bellezza. È un film che è uscito da qualche giorno, presentato a Cannes, lo sapete. Gli italiani ci sono rimasti male che il film è stato ignorato dalla giuria di Cannes. Vedremo dopo se alla fine i giurati di Cannes avevano ragione o no. Il film ha bisogno del vostro supporto, questa trasmissione. Cioè, io ho bisogno di qualche commento da parte di persone che si collegano in diretta tramite i nostri social, tramite Facebook soprattutto, tramite la pagina Cinema Massimo, direttamente sull'invito sull'evento della trasmissione, per dirmi la vostra. Oggi già qualcuno ci ha scritto esprimendo non troppo apprezzamento per il film, però il film secondo me non è un film da disprezzare, è un film da capire. Bene, vi ricordo che siamo in diretta, siamo negli studi dell'Albero della Speranza in via Arduino Ivrea. Questa è la sede di Radio Bawalla, la radio net, la radio web per tutti. Devo assolutamente ricordare, è importantissimo, tutte le musiche che ascolterete, che ascoltate sia mentre parlo io che tra un commento e l'altro, sono musiche in Creative Commons, cioè musiche gratuite, libere da ascoltare, da scaricare, quanto vi pare, quanto vi piace. No, questa è la linea editoriale di questa radio. Vi dirò poi il nome del pezzo e il cantante, però iniziamo direi subito parlando del film, dando alcune nozioni più che altro tecniche. Beh, il film La grande bellezza è un film diretto da Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino è un regista napoletano del 1970. Il film è stato diretto e scritto da lui. La sceneggiatura è stata scritta sempre da lui, aiutato da Umberto Contarello. La prima cosa che salta agli occhi del film è il cast. Oltre a Tony Servillo, che probabilmente in questo momento è il miglior attore italiano in circolazione, ci sono tutta una serie di persone, personaggi interpretati da piccoli o grandi attori, grandi caratteristi della scena sia teatrale che cinematografica italiana, che man mano che compariranno nel film vi racconterò. Ognuno di loro esprime un personaggio particolare, stravagante, non comune, insomma. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone complicate, strane, che andremo a analizzare breve. Vi lascio adesso con il primo pezzo in Creative Commons. Loro sono Casey Key and the Raindogs. Il pezzo si chiama Tramp. Certified whore. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, I'll wait that night. Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, I'll wait that night. Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. Cops on my trail, gotta hurry home. Get her in bed, you best not fall asleep. Bene, bentornati in diretta, era Casey Key and the Rain Dogs, sempre al Cinema Massimo, speciale La Grande Bellezza, il film di Paolo Sorrentino nelle sale da qualche giorno. Bene, prima di analizzare il film con un commento tecnico direi più o meno di provare a raccontarvelo senza svelarvi il finale, anche perché il finale in realtà è proprio da interpretare anche quello, quindi la mia interpretazione potrebbe benissimo essere diversa dalla vostra. Allora, il protagonista della Grande Bellezza è Tony Servillo, come abbiamo detto probabilmente il miglior attore italiano in questo momento sulle scene. Interpreta uno scrittore giornalista di nome Jeff Gambardella, uno scrittore di origine partenopea che si è trasferito a Roma all'età di 26 anni, mi pare che lo dica proprio. Beh, lui è l'autore di, in realtà più che scrittore, è lo scrittore di un unico romanzo intitolato L'apparato umano, romanzo che viene citato più volte durante il film e che pare sia stato un romanzo importante nella storia della letteratura italiana. Però poi Jeff non ha più scritto da allora, ora è un 65enne, quindi 40 anni senza scrivere più nulla, travolto da, come forse lui dice all'inizio, dalla bellezza e dalla mondanità di Roma. Roma che secondo me è la seconda protagonista del film, dopo Tony Servillo è Roma, tutto quello che succede intorno al protagonista, tutto quello che lui vive e osserva accade nello splendore della capitale, vista in modo eccezionale, quindi ci sono secondo me delle inquadrature notevoli e Paolo Sorrentino sceglie degli scorci di Roma non troppo usuali, non troppo banali, anche particolari, molto ricercati. Ci sono moltissime inquadrature fatte dentro palazzi di Roma che non sono aperti al pubblico, palazzi privati, case private. La bellezza di Roma, insomma, alla quinta è espressa in questo modo. Ma veniamo a noi, quindi Jeff Gambardella, abbiamo detto, Tony Servillo, si aggira tra la bellezza di Roma e la particolarità di Roma, diciamo forse il punto debole, come viene detto anche nel film, di Roma, che sono i suoi abitanti. Vi ricordo che aspetto le vostre interazioni, il vostro pensiero, il vostro giudizio, se qualcuno che è in linea ha visto il film e vuole dirci qualcosa, esprimere parere favorevole o sfavorevole a quello che ha visto. Mi attendo anche qualcosa sui film di Sorrentino precedenti, di cui accenneremo dopo. Quindi lui si aggira in questa capitale nel mondo, vivendo il mondo della mondanità, quindi vivendo di notte tra feste, party, salotti romani e non vivendo e rientrando a casa al mattino quando dorme tutto il giorno, e incrocia personaggi di tutti i tipi, macchiette che rappresentano un mondo strano, un mondo alienato, un mondo con problemi, un mondo che non sa esprimersi appieno nella sua personalità. Comunque vi dico, racconterò adesso, dopo il prossimo pezzo, quello che gli eventi più importanti che capitano a Jeff nel film e soprattutto chi sono gli attori che lo accompagnano nel racconto, attori, attoroni, cast italiano di livello. Marco Bruno, che è il mio tecnico, lui non l'ha visto il film, lui non va al cinema, perché anzi no, va, dove vai tu? Vai al Cineforum, vabbè, quelli sono film, anche quelli belli, anche, però noi vogliamo parlare di film attuali. Bene, vi lascio adesso col prossimo pezzo e parleremo dopo della storia di Jeff Gambardella in La Grande Bellezza. Vi lascio con Abscondo e il pezzo è Midnight Snow. You only had up until that at night as one to hide away from these games. And though I'd never fit with you, I still liked what you do, and so you came. And now I'd rather have love's control. Tonight I'm so alone. Behind these shadows I overflow. I sent you away in the midnight snow. Your tears cling to my soul. I won't say I love you, but you still know. And your red hat were flakes of white, but when we faced the day, it turned to rain. And those few days were filled with you, I still can taste it too. Now this pain, and now I'd rather have love's control. Tonight I'm so alone. Behind these shadows I overflow. I sent you away in the midnight snow. Your tears cling to my soul. I won't say I love you, but you still know. I sent you away in the midnight snow, in the morning rain, in the midnight snow. I won't say I love you, but you still know. And now I'd rather have lost control. Tonight I'm so alone. Behind these shadows I overflow. I sent you away in the midnight snow. Your tears cling to my soul. I won't say I love you, but you still know. You still know in the. Bene, bentornati in diretta. Eccomi qua, sfuma la musica, Marco, se no non mi sentono. Un tecnico, vabbè, abbiamo quello che ci passa il convento. Erano gli Abscondo. Bezzate, signori, abbiamo il primo commento in diretta per Cinema Massimo, incredibile, roba, non ce l'aspettavamo e non ce lo siamo fatti da soli. E Emanuele Zangarini che dice la sua sul film. Pregi, Servillo sempre grande, chiaramente, l'abbiamo detto. Dialoghi belli e tosti e incalzanti. Indimenticabile il monologo su Stefania. La Ferilli e la simpaticissima editrice. Verdone un po' sottotono, ma godibile. Bene, analizzeremo nel dettaglio i tuoi commenti, Emanuele, ma adesso raccontiamo un po' il film, se no la gente che non ha visto il film non capisce nulla di quello che stiamo dicendo. Allora, abbiamo detto, il protagonista Jeb Gambardella vive la notte e dorme di giorno, cerca disperatamente di tornare a vivere nella realtà, ma lui è travolto nella mondanità. Lui vuole, come lo dice nel suo monologo iniziale, lui vuole essere il re della mondanità, essere lui che decide quando una festa deve, non solo deve esserci, ma deve andare, deve funzionare, eccetera. Infatti la prima scena memorabile del film è, a parte l'inizio un po' particolare con Roma vista in posti strani con turisti cinesi di cui uno sviene o muore, non si capisce bene, sotto il sole mentre fa le foto, e la festa in piscina, una festa travolgente, una festa in cui compaiono personaggi stravaganti, una festa accompagnata dalla musica dance a palla, in cui spiccano dei messicani che mentre la musica va a palla loro suonano la loro musichetta messicana. E la cosa che mi ha colpito particolarmente della festa è la persona che esce dalla torta, questa donna prorompente, sfatta, possiamo dirlo, che è Serena Grandi. Una Serena Grandi che interpreta se stesso, un ex sex symbol degli anni 90, sfatta, sovrappeso, schiava della droga, infatti ci saranno delle scene in cui si farà di cocaina, e soddisfatta anche dagli interventi chirurgici. Questa è la prima macchietta del film, un po' particolare. Poi che cosa succede? Lui, Jeff Gambardella, abita in una casa spettacolare, abita in una casa con vista sul Colosseo, e lui, la sua particolarità è che osserva sempre, guarda i personaggi che gli sono intorno, li giudica, ma sempre con ironia, con un tono sarcastico, senza, prendendoli un po' in giro ma senza esagerare, tranne in un momento che racconteremo dopo. Il secondo personaggio più presente nel film è interpretato da Carlo Verdone, che interpreta Romano, un aspirante scrittore di teatro disilluso, che cerca disperatamente di trovare uno spazio per la sua opera, o cerca di essere coinvolto nelle feste, ma lui non è Jeff Gambardella. Jeff Gambardella è un uomo affascinante che ha qualcosa da dire. Carlo Verdone interpreta Romano, che è diciamo il povero sfigatello di mezz'età, l'uomo solo che non ha nulla, che vive addirittura in una stanza per gli studenti a 50 anni e fischia. E poi alla fine rimarrà deluso da Roma e tornerà al paese. L'interpretazione di Verdone effettivamente, come dice Emanuele, è un po' sottotono, è il solito Verdone, è il Verdone che sappiamo tutti. A me è saltato all'occhio subito una cosa: nel momento in cui c'è quella scena in cui Verdone e Servillo sono nella stanza e parlano, mi spiace dirlo per Verdone, ma ho visto la differenza tra un grande attore come Servillo e il buon Verdone, che era sempre lui ma non è Tony Servillo. Vi lascio al prossimo pezzo in Creative Commons, sono gli Art Somerville e questo è Sleeping in My Boots. Bene, rieccoci in diretta, Radio Abba Walla, Cinema Massimo, Film in Sala. Stiamo parlando della Grande Bellezza, il film di Paolo Sorrentino. È un film che vive di questa vita notturna. La prima svolta del film avviene quando il protagonista, Jep, rientrando da una delle sue solite feste notturne, in cui praticamente addirittura c'era quella scena in cui lui ha una relazione notturna con Isabella Ferrari, un'altra guest star del film, e c'è quel momento in cui, dopo aver fatto sesso, Isabella Ferrari va nell'altra stanza dicendo: torno e ti porto a vedere delle foto. E c'è una frase particolare in cui lui a se stesso dice: quando si arriva a 65 anni si perde il tempo, ci si rende conto che non si è più in grado di perdere tempo a fare ciò che non ci interessa. Infatti lui se ne va e le foto di Isabella Ferrari non le guarda. Rientrando a casa, sulla porta di casa trova il vedovo di Elisa De Santis. Chi è Elisa De Santis? Elisa De Santis è stata il suo primo amore, la sua prima ragazza perduta, la prima ragazza che lo ha lasciato, e il vedovo di Elisa De Santis lo va a cercare 40 anni dopo, perché in un diario Elisa ammette di essere praticamente sempre stata innamorata di Jeff, di aver vissuto con il suo compagno, che definisce un buon compagno e niente più, ma il vero amore era un'altra cosa. E qui lui, Jeff, si scontra un po', torna un po' a vivere il passato, a ricordare tempi perduti e a cercare di capire, cosa che poi tornerà infatti, perché Elisa De Santis, la donna con cui, la ragazza con cui lui ha fatto l'amore per la prima volta, perché lo ha lasciato, visto che ha riempito un diario parlando sempre solo di lui e del suo compagno per 40 anni, ha scritto due righe, ma perché l'ha lasciato? Perché se n'è andata? È un mistero che risolveremo solo alla fine con una frase che può voler dire tutto o può voler dire niente. Ricordo che potete intervenire in diretta, per ora solo con i nostri social network, quindi con Facebook, per chi è mio amico sulla pagina personale, per chi ha aderito all'evento sull'evento di Cinema Massimo. E continuiamo, lui adesso cerca di ritornare alla vita e comincia, e si vede anche la sua attività da giornalista. Lui va a fare l'intervista a un artista un po' strano, un artista che è nuda, dà una testata contro un monumento storico romano, allora la intervista, ma lui non si fa gabbare da questi artisti che rispondono, non rispondono, non si sa bene che cosa vogliono dire. E lui lavora in un giornale che si occupa d'arte, il cui direttore o direttrice è Dadina, una nana, si può dire, che è una donna dalle mille virtù e che ha grande stima per Jeff. Un'altra delle cose che torna spesso nel film sono i salotti romani, i ritrovi di tutti questi personaggi che si trovano e parlano e parlano e parlano e giudicano e commentano la vita. E Jeff, che in realtà interviene sempre poco, commenta sempre poco, forse perché lui si crogiola sull'importanza, sulla potenza che ha avuto questo suo romanzo che aveva scritto 40 anni prima nella storia della letteratura italiana, romanzo che ovviamente è inventato, però, e qui si scontrerà con Stefania, una salottiera, diciamo, romana, e avranno uno scontro verbale molto mortificante per lei. Ma ora vi lascio il prossimo pezzo in Creative Commons, sono The House of the Old Bot e il pezzo si chiama Piccadilly. We'll be right back. Bene, rieccoci in diretta, sempre da Ivrea. Salutiamo Ginevra che ci saluta da Roma direttamente e ci sta seguendo. Spero che abbia visto il film e che possa condividere. Se vuoi scriverci qualcosa, Ginevra, sul film o su Roma, qualsiasi cosa ti pare, noi siamo ben accetti. Come dicevo prima e come diceva Emanuele nel suo commento sul nostro evento, una delle scene più memorabili del film avviene in uno di questi salotti romani, in una notte in cui queste persone, tra cui appunto Romano, Verdone, lo stesso Jepp e altri ospiti di questa Stefania, questa signora romana benestante, sono ospiti del suo salotto e lei, come sempre, pontifica, parla di se stessa, si esalta, si autoesalta, scrittrice, donna di aver prodotto, che ha prodotto 11 libri, mi pare, sì, 11, di aver aderito ai programmi del partito, di aver combattuto. E cosa succede in questa situazione qua? Che Jepp fa quello che non, in realtà non si fa mai, cioè si sbugiarda clamorosamente una persona di fronte a tutti, umiliando e massacrando la povera Stefania in tutti i suoi punti, di come i libri sono stati pubblicati perché finanziati dal partito, di come lei in realtà fosse più ricordata per altre cose piuttosto che per la lotta ai suoi ideali, di come in realtà lei i figli non li abbia cresciuti ma se li sia fatti crescere. Insomma, è un susseguirsi di frasi scusate, che umiliano la povera Stefania finché lei non se ne andrà. Un momento particolarissimo, è uno dei momenti più memorabili del film, in cui c'è proprio l'umiliazione di una donna di fronte a tutti, in questi salotti romani che in teoria dovrebbero essere i salotti del perbenismo, del volemos e bene, come si dice, come dicono giù. Un'altra cosa che mi ha colpito molto del film, tra tutte le cose che si susseguono, tutti questi piccoli sketch, questi piccoli personaggi che si alternano, è una scena che avviene sempre in una specie di salotto. Inizialmente non si capisce bene che cosa sia, appena l'ho vista mi ha ricordato un po' la scena di Eyes Wide Shut, la festa con la parola d'ordine Fidelio, in cui c'erano queste persone sedute in questo ambiente poco chiaro. In realtà non era quello, si trattava di un chirurgo che riceveva i suoi pazienti per fare iniezioni di botulino a casa sua la notte, di sera, e i clienti aspettano come si aspetta in coda dal salumiere, ognuno ha il suo numero, il numero viene chiamato, 1, 2, 3, e tutti si fanno fare la loro iniezione finché non arriva la sfatta Serena Grandi, che viene anche lei massacrata, umiliata di fronte, per essere andata da un altro chirurgo e non da lui. Vabbè, è una scena particolare, molto molto strana. Il chirurgo, il botulino, succede un'altra, ci sono tantissimi camei nel film, compare Antonello Venditti sia come canzone che in persona, c'è Lillo di Lillo e Greg che interpreta un particolare collezionista d'arti, è un altro personaggio che a me è piaciuto particolarmente anche nella interpretazione, anche se compare poco, è il personaggio di Stefano, interpretato da Giorgio Pasotti, che interpreta il possessore delle chiavi. Che cosa vuol dire il possessore delle chiavi? Ve lo spiego a breve, ora vi lascio al prossimo pezzo. Loro sono The Dada Waterman, scusate perché l'inglese, vi ricordo che tutto questo in Creative Commons, musica libera e gratuita. The Dada Waterman, il pezzo è Status. Dancing. my traffic pulling in now. Bene, bentornati in diretta ancora con Radio Baguale Cinema Massimo, qui è Massimo Picca. Vi ricordo che quello che il programma che state ascoltando verrà reso disponibile in podcast per ascoltarlo, riascoltarlo mille volte finché non avrete la nausea. Ma vedo che Ginevra sta diventando interattiva nei suoi commenti. Non ha visto il film purtroppo Ginevra, e vabbè, non te ne vergogni, non ti preoccupare, è appena uscito. Però ci dice una cosa importante, che nei salotti romani piove, piove, piove. È una frase... Noi non abbiamo... Tu Marco sei mai andato nei salotti romani? Qualche volta è andato. Io non sono mai andato. Ci porteremo l'ombrello a sto punto, visto che piove sempre. Ultimamente spesso se lo sono rubato quelli dei salotti romani, il sole. Bene, questo è ancora Ginevra che ci scrive sui salotti romani. Io purtroppo non li frequento, li ho visti solo nel film di Sorrentino. Ti ringrazio Ginevra. Comunque, però, io ti dico, il film, io te lo comunque, non è che voglio che tu non lo veda, lo devi assolutamente vedere, perché io, forse non si è capito, ma il film lo consiglio, il film è da vedere. Poi, giudizi o non giudizi positivi, però la mano di un bravo regista si vede rispetto ai soliti filmetti che purtroppo siamo abituati a vedere. Eravamo rimasti alla scena di Stefano, il possessore delle chiavi. Stefano è interpretato da Giorgio Pasotti, che lui possiede le chiavi. Cosa vuol dire? Ha una borsa, una 24 ore, con dentro le chiavi dei più bei palazzi romani. Infatti è memorabile il giro che fa fare Stefano a Tony Servillo di notte, insieme a chi? È un altro personaggio fondamentale ed è Ramona, è interpretato in questo caso da Sabrina Ferilli. Sabrina Ferilli fisicamente in splendida forma, ma anche come attrice, secondo me non è dispiaciuta. Lei ha fatto il ruolo per cui è stata chiamata, ha fatto la romana, con questa sua parlata molto, molto libertina, molto, molto free, come si dice, ma è quello che, per cui è stata chiamata. Ma a me non è dispiaciuta, fisicamente sempre all'altezza, sia nel suo, diciamo, spogliarello, ma anche in alcune scene in cui di seminudo. E la Ferilli, diciamo che compare parecchio in quel film. In questo film accompagna Tony, Jeff Gambardella, in molte scene, tra cui questa visita notturna nei più bei palazzi romani chiusi al pubblico, di cui questo Stefano, misterioso Stefano, ha le chiavi. Ma lui gli chiede: ma scusi, ma perché lei ha le chiavi? E lui risponde: perché è una persona affidabile. Bah, cosa vorrà dire? Vuol dire che le chiavi lui le usa solo come gli pare, ma non ne abusa. Questa è l'interpretazione. E poi diciamo che il personaggio di Sabrina Ferilli, questa Ramona spogliarellista, ultra quarantenne, che non vuole abbandonare il suo lavoro, che spreca i suoi soldi. Ma perché una spogliarellista spreca i suoi soldi? Non si droga, non beve, non compra nulla. Ce lo dice in un momento, li usa per curarsi. Infatti c'è una scena in cui Sabrina, Ramona, sembra quasi morta. È una bella scena di attesa in cui si ha il senso della morte. Poi in realtà lei si riprende, stava solo dormendo. Ma un altro personaggio che secondo me è da ricordare è il personaggio interpretato da Roberto Erlisca, un torinese, un attore, un caratterista molto bravo, attore di teatro, che interpreta un cardinale esperto in esorcismi. Ve lo racconterò breve, non è solo esperto in esorcisti, ma è esperto anche in cucina. Ve lo racconterò tra poco. Vi lascio un altro pezzo in Creative Commons, lo sono gli Ocean Sea e questo è Breathing. Thank you. Bene, rieccoci in diretta con Cinema Massimo, speciale La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino. Dicevo che un altro dei personaggi particolari del film, interpretato da Roberto Erlizka, attore torinese, è un cardinale in odore di pontificato, esperto in esorcismi e in cucina. Infatti lui parla continuamente di ricette, racconta di qua, di là, come si fanno le ricette, ma evita tutte le domande riguardanti la fede e i problemi morali. Non gliene sembra non importare nulla. È un personaggio molto caratteristico e molto particolare. E questo personaggio molto particolare si troverà in una delle scene finali del film a cena contemporaneamente con sempre Jepp. Quindi ci sarà Jepp, il cardinale, due nobili noleggiati, sì, perché servivano due nobili. Quella sera nobili non ce n'erano perché erano tutti via per un matrimonio importante, e c'erano due nobili decaduti che si fanno noleggiare per partecipare agli eventi. Quindi il cardinale, Jepp, due nobili decaduti e la Suor Maria, una che ricorda molto come figura, può ricordare Madre Teresa di Calcutta, queste suore missionarie in odore di santità, devotissime, che non parla mai, accompagnata da un portavoce che parla in continuazione. E Suor Maria sembra essere alla fine con quelle quattro parole che dirà al povero Jepp, sembra essere poi l'unico legame con la realtà, che lo fa ritornare a riflettere, a pensare a quello che capita. Questa suora che vive solo di radici e non neanche tutto il giorno, le mangia solo una volta al giorno, una suora che sale i gradini della chiesa, delle chiese in ginocchio. C'è una scena in cui la suora sale faticosamente questi gradini, mentre Jepp continua a pensare a Elisa De Santis, al suo vecchio amore, continua a vivere in questo mondo finto di personaggi strani, incontra un illusionista che in mezzo ai fori romani, se non sbaglio, non voglio dire una fesseria, mi pare fossero i fori imperiali, fa un esperimento di sparizione di una giraffa, insomma. E poi un altro personaggio stranissimo è il suo vicino di casa, il vicino di casa di Jepp, che lui incontra spesso, che incontra una volta in ascensore, che spesso vede sul balcone e che non parla mai, è sempre in silenzio, non risponde mai alle domande di Jepp, che prova a fare conversazione, e alla fine si scoprirà che si tratta di un super latitante. Quando arriverà la DIA e lo porta via, e fa anche rima, quindi ci siamo. Ma una delle frasi memorabili che vengono dette, che ci arriviamo verso la fine del film, viene detta proprio da Suor Maria, che alla domanda perché lei mangia solo radici, lei risponderà anche a fatica, perché le radici sono importanti. Una frase memorabile detta, pensate, con il balcone di Jepp pieno di fenicotteri che stanno migrando, si fermano sul balcone di Jepp e dopo questa frase volano via. Una bella scena, una scena anche visivamente molto carina, con questi uccelli che volano, ed è una scena che lascio un po' alla vostra interpretazione. Le radici sono importanti, viene detta una frase che viene detta a uno scrittore partenopeo che si trasferisce a Roma per provare a scrivere, ma che in realtà vive di mondanità e che ha perso le sue radici completamente, ha perso completamente l'obiettivo e il motivo per cui era arrivato a Roma, per fare l'autore, per scrivere, per essere qualcuno, si perde nella mondanità di questa città caotica e molto bizzarra. Bene, arriviamo adesso alla fine del film, ma prima vi lascio ancora a un pezzo in Creative Commons. Loro sono i Rob Coslow e questo è Meant to Be. Ok, bentornati in onda su Radio Abba Walla con era Rob Kostlov con questo assolo di piano. Abbiamo preferito chiudere prima che farvi scappare tutti quanti. Era un po' così, ci stavamo viaggiando con la fantasia pure noi. Siamo arrivati alla fine del film con questi fenicotteri che volano via dal balcone di Jep, e Jep che torna che viene salutato da Romano, Carlo Verdone, che lascia la città dopo aver esordito a teatro, torna al paese perché Roma l'ha deluso, non gli ha dato nulla, e Jep continua ossessivamente a pensare a Elisa De Santis, al suo primo amore, alla donna con cui, la ragazza con cui lui ha fatto l'amore per la prima volta. E il film, secondo me, si poteva chiudere, o comunque la frase finale del film, che poteva essere conclusiva o che è da interpretare, la dice Elisa De Santis, questa giovane ragazza con il giovane Jep su una scogliera, credo in Costiera Amalfitana, in cui lei dice, gli dice a Jep, non parla mai, appena si spoglia si, o fa intravedere qualcosa a Jep, e gli dice: stai tranquillo, tanto è solo un trucco. Bah, che cosa vorrà dire questa cosa? È solo un trucco, che la vita va vissuta per quello che è, o va mostrata come può essere la vita mondana di Roma. Bisogna sempre esibire, bisogna sempre fare tutto che sia, tutto sia truccato, tutto sia diverso, tutto sia finto in un certo senso. Chi lo sa? Io ho dato questa interpretazione qua, cioè che tutto è un trucco, nel senso che la realtà non si vede mai, siamo truccati, siamo nascosti, viviamo di mondanità e va bene così, bisogna sembrare e non essere. Il film, cosa vi posso dire ancora? Si chiude con un ultimo scorcio di Roma, bellissima città ovviamente, indimenticabile, e il film secondo me è da vedere perché nel bene o nel male si capisce poco, non c'è un flusso narrativo che io vi posso dire, c'è una storia che inizia e finisce, si capisce completamente, c'è tutta una serie di personaggi. Una cosa che mi ha un po' colpito in questi giorni, che di cui stanno parlando in tanti, è stato tirato in ballo Federico Fellini con La Dolce Vita. Innanzitutto bisogna vedere La Dolce Vita, stiamo parlando di un film, se non sbaglio sono almeno 50 anni, se non 60 anni fa, e la vita sono gli anni 50-60 di Roma, adesso non vorrei dire una castroneria dell'anno, però credo presumibilmente gli anni 50, con Mastroianni in forma, con Anita Ekberg e il suo bagno nella Fontana di Trevi. Anche lì è una caratteristica di Fellini che ricorda questo film, secondo me, e sono tutti questi personaggi stravaganti che compaiono continuamente. Solo che, non lo so se è il caso di tirare in ballo Fellini. L'unica cosa che mi ha ricordato Fellini sono i personaggi stravaganti, le persone che compaiono, queste scene, questi personaggi che non si capiscono, la scarsa interpretazione del reale, il mondo finto, il mondo vero, non lo so. Questo è quanto, però il film sicuramente la grande bellezza da vedere. Se avete tempo guardatevi anche La Dolce Vita, perché non vi fa di sicuro male, credo esiste, si possa vedere addirittura completamente su YouTube. Vi lascio adesso all'ultimo pezzo, uno dei pezzi che, diciamo, si può dire, Marco, che spacca di più sui Creative Commons. Per salutarvi dopo e ricordarvi tutti gli appuntamenti di Radio Abba Walla, vi lascio con i Millionaire Blonde, il pezzo è Sulla Terra. Non è perché sei bionda che capisci tutto quanto. Dormi. C'è luce ma tu dormi. Ho inventato un programma geniale fatto apposta per me. Sogni. Rubi nei miei sogni. Prendi quello che non riesci a trovare nei ricordi che hai. Ti aspetterò quando il buio scenderà sulla terra, quando il peso della sveglia sarà ancora insopportabile. Camminerò giù, sempre più tu, sempre più giù. Bene, bentornati in linea con Radio Bawalla. Pensate, addirittura abbiamo tra gli ascoltatori niente proprio di meno che Christian, il più bello di Ivrea. Tutte le ragazze lo conoscono sicuramente, che ha lasciato il suo commento. D'altronde è un grande fisico. Vabbè, a parte questo, ora torniamo un attimo su Emanuele, che lascia ancora un commento. Insomma, Emanuele, secondo me, da quello che si capisce, il film non è piaciuto poi così tanto, e parla soprattutto dei difetti. Ovviamente sì, Le conseguenze dell'amore era tutt'altro film, un altro film di Sorrentino, forse il migliore della coppia Sorrentino-Servillo, un film molto molto bello, molto, che fa della sua lentezza la forza di quel film. Lui dice che Jepp, nella scena del primo amore, si svolge sotto una luna fasulla, i momenti del film sembrano così falsi. La cosa della luna fasulla è vero, Emanuele, sono d'accordo, però bisogna tenere conto anche che si tratta di un flashback, di un ricordo, quindi questo rendere diverso il vero dal ricordo potrebbe essere anche una tecnica voluta dal regista per distinguere i due momenti. E ovviamente la Suor Maria non è un'anziana, ma è un'attrice. Pensa addirittura che io a un certo punto pensavo fosse Isabella Ferrari truccata, talmente era, poteva assomigliarle. Però questi sono i gusti. L'importante, Emanuele, è che tu il film l'abbia visto, perché almeno quello, secondo me, bisogna farlo. Bene, questo è quanto. Ringrazio gli ascoltatori di Radio Bawalla. Ringrazio Marco Bruno alla regia, che purtroppo mi dicono che è saltato anche il collegamento per qualche minuto. Potete riascoltare il podcast completamente salvato su Radio Bawalla, ma potete ascoltare il podcast non solo di questo, ma della scusate, sempre di Cinema Massimo, con la monografia su Woody Allen. Poi ci sono altri programmi come Torino la mia città, Strip Trip, che parla di fumetti. Scusate, mi sta venendo la tosse proprio alla fine. Chi c'è? La diretta del sabato, in diretta sempre su Radio Bawalla. Siamo in via Arduino e la radio libera per tutti voi. Tutto quello che ascoltate lo potete riascoltare in podcast radiobawalla.net. E lo sfondino, cioè la musica che ascoltate, che avete ascoltato mentre io parlavo, erano Ugo Drupi, Contini, Dewey Square. Vi lascio con l'ultimo pezzo, ringrazio tutti gli ascoltatori, tutti quelli che hanno commentato, Ginevra, Emanuele, Christian, Filippo, e vi lascio con Teresa and Daylight. Ciao! me, hold me, touch me. It's what I really need. Be the one who's listened to me. It's what I really need. You can give me everything. What I really need. And your love is like daylight. Daylight. Daylight is what I really need. And your love is like daylight. Daylight. Daylight is what I really need. What I really need, what I really need. You can give us everything. What we really need. Be a man for each other. It's what we really need. Together every day is what we really need. We can give us everything. What we really need. And our love is like daylight. Daylight. Daylight is what we really need. And our love is like daylight. Avete sentito Cinema Massimo con Massimo Pichi.